Abbiamo un Dio meraviglioso. Quale affermazione meravigliosa! Com'era che abbiamo cantato? Gesù, redenzione e salvezza nel sangue tuo. È così, noi siamo salvati, siamo redenti, siamo lavati per il sangue di Gesù. E stasera abbiamo questa occasione meravigliosa di celebrare la cena del Signore, che è proprio quell'appuntamento che ci dà la possibilità di ricordarci quello che Gesù ha fatto per noi 2000 anni fa. Lui è morto e non è rimasto morto. Dopo 3 giorni lui è risorto e con la sua morte ha portato con sé nel suo corpo tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati, e nella sua resurrezione ha vinto contro la morte, ha vinto contro il nemico e ci fa trionfare. Nella sua morte tu hai speranza di perdono, nella sua resurrezione tu hai speranza di vittoria. Non è meraviglioso? E siamo qui per celebrare un Dio che è vivo, un Gesù che è vivo. Io questa sera ho portato con me la Bibbia, non so se voi avete la vostra Bibbia cartacea, posso vedere chi è che ha la sua Bibbia cartacea con sé? Vorrei fare un applauso, vorrei che noi dedicassimo un applauso a queste persone. Alzate la vostra Bibbia cartacea, che sono sempre più rare. Melina, se non sbaglio, Grazia, no, Grazia c'aveva il cellulare in mano, mamma con la Bibbia cartacea, quanto siete vintage, però ci piace così, è molto bello. La Bibbia è qualcosa che ha un suo peso, non è un peso solo di pagine, di carta, ha un peso enorme spirituale e di rivelazione. Io stasera vi voglio parlare di rivelazione. Che cosa significa questa parola? Rivelazione non è altro per definizione che la scoperta o venire a conoscenza di qualcosa che fino a quel momento era segreto, era nascosto, era riservato ad alcuni. Quindi quando noi parliamo di rivelazione di Dio, rivelazione della sua natura, dei suoi attributi, noi stiamo parlando del fatto che abbiamo il privilegio di scoprire, venire a conoscenza di qualcosa che prima c'era nascosto, qualcosa che prima non conoscevamo. La Bibbia, la parola di Dio, ha un peso nella nostra vita perché svolge un ruolo fondamentale ed esclusivo, perché è l'unico mezzo che ci dà rivelazione di chi è Dio veramente. Se vuoi conoscere chi è Dio, chi è il creatore dell'universo, chi è il salvatore, chi tornerà e metterà ordine in questo mondo, trovi conoscenza di questo Dio nella sua parola, la Bibbia. Siamo d'accordo? È per questo che ogni domenica noi leggiamo la Bibbia. C'è un'altra cosa che la Bibbia fa: non solo ci dà conoscenza di chi Dio è, ma ci dà anche conoscenza di chi siamo noi. È interessante pensare questa cosa, perché a volte pensiamo di conoscerci, e invece poi leggiamo la Bibbia e la Bibbia ci dà una doppia rivelazione: ci rivela chi è Dio e ci rivela anche chi siamo noi. È straordinario. E basta cominciare proprio dalla primissima pagina, Genesi 1, per scoprire, ad esempio, che Dio è il creatore dei cieli e della terra, che tu sei una creatura di Dio, quindi hai una doppia rivelazione: chi è Dio, chi sei tu. Non derivi dalla scimmia. Amen? C'è un amen proprio convinto. C'è qualcuno che assomiglia a una scimmia. Se poi ti cresci la barba, inevitabilmente la somiglianza si avvicina. Però tu non derivi dalla scimmia, tu derivi e sei creatura di Dio, del Dio vivente che ti ha voluto, che ti ama. Ora, hai conoscenza di Dio? Questa è la mia domanda. Hai piena conoscenza di Dio? Ora, avere piena conoscenza di Dio, totale conoscenza di Dio, è impossibile, perché noi siamo limitati e Lui è infinito, eterno. Però avere conoscenza di Dio, accumulare e afferrare quanta più conoscenza possibile, è fondamentale per la vita di ogni uomo su questa terra. C'è un pastore e un autore di inizio secolo che ha fatto questa affermazione. Ha detto: la cosa più importante della nostra vita è l'idea che abbiamo di Dio. Pensate un po', lui dice, sono d'accordo, la cosa più importante nella tua vita è l'idea che c'hai di Dio. Qual è la tua idea di Dio? Che è distante o è vicino? Che ascolta o non ascolta? Che è vivo o è rimasto morto? Che si approccia ad alcuni o si approccia a tutti? Tutte queste domande, tutte queste conoscenze riguardanti Dio sono fondamentali perché determinano la nostra vita di fede. La tua vita di fede è determinata dalla tua conoscenza di chi è Dio. Infatti Romani 10 dice che la fede deriva proprio dall'ascoltare la parola di Dio. Perché è nell'ascoltare la parola di Dio che noi abbiamo conoscenza e rivelazione di chi Dio è. Quindi tu hai bisogno di conoscere Dio per essere un uomo di fede, per essere una donna di fede. Hai bisogno di avere conoscenza di chi è Dio veramente, veramente, non per sentito dire. Non basta ascoltare un bel messaggio la domenica. Non basta mettersi su YouTube come forse alcuni stanno facendo in questo momento ascoltandoci dal computer. Non basta ascoltare dei belle prediche, dei bei messaggi. Noi dobbiamo attingere dalla parola di Dio giornalmente. Individualmente ognuno di noi deve avere il coraggio, la forza, la determinazione, la disciplina di aprire la Bibbia per avere piena rivelazione di chi Dio è. Sapete perché? Perché se non lasci alla parola di Dio definire chi è Dio, ci sarà qualcun altro che definirà chi è Dio per te. Se non permetti alla Bibbia di dirti chi è Lui, forse le tue esperienze cominceranno ad urlarti contro e a dirti chi è Dio. Purtroppo le esperienze, le circostanze di vita urlano. E urlano a gran voce. E io so che ora siamo tutti qui, no? E siamo tutti contenti, abbiamo avuto un bellissimo momento di lode e adorazione, e bene o male siamo tutti in una condizione di fede abbastanza buona. Ma è probabile che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nel nuovo anno, affronteremo delle stagioni difficili. E forse ci limiteremo dal venire in chiesa, dall'attingere dalla parola, e in quel momento le circostanze possono avere una forza tale di urlarci delle bugie, delle falsità sul conto di Dio che demoliscono la nostra fede, ci fanno crollare del tutto. È per questo che noi dobbiamo attingere dalla parola di Dio e comprendere individualmente, ognuno per noi stessi, chi è Dio e in che cosa stiamo credendo. Conosci il tuo Dio? Stai credendo nel Dio della parola? Sei convinto di tutto ciò che la parola di Dio dice sul conto di Dio e di Cristo Gesù? È fondamentale. È fondamentale. Ora, in Colossesi, al capitolo 1, noi leggiamo che Gesù è Dio. Non lo leggiamo solo lì, ma in Colossesi 1, io vi invito a leggerlo, noi abbiamo proprio la possibilità di leggere il primato di Cristo, quanto Lui è Dio perché prima di ogni cosa, non è stato creato ma è colui che crea. E a un certo punto c'è scritto che Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Se tu vuoi conoscere Dio, devi conoscere Gesù. E se conosci Gesù, conosci Dio. Perché Lui è l'immagine di Dio. È per questo che io voglio parlare di Gesù. Che idea hai di Gesù? Chi è Gesù per te? Ora, è molto curioso approcciarsi ai Vangeli con questa domanda. Perché se noi ci approcciamo ai Vangeli proprio domandandoci chi è Gesù, i Vangeli ci rispondono. Ed è importante che lo facciano loro, lo ripeto, altrimenti saranno le nostre esperienze a dirci chi è Gesù. O saranno i concetti, le idee, le parole che ci sono state trasmesse da altri. È vero, noi abbiamo questi banner, no? Che belli grandi, che ci dicono una verità proprio ingombrante: Gesù è vivo. E per quanto ce l'abbiamo grande, per quanto lo cantiamo, per quanto lo crediamo, a volte questa sicurezza la perdiamo. Perché abbiamo un'immagine di Gesù che a volte è impotente, sofferente, ancora su una croce, è appeso lì e non può intervenire nelle nostre vite. Questa, ad esempio, è un'immagine, un'idea che ci viene trapassata dalla nostra esperienza religiosa, magari. chi è Gesù? È veramente vivo per te? Ti stai rivolgendo a Lui come colui che è vivo, che ascolta, che parla, che si muove, che agisce? È fondamentale. Chi è Gesù? La cosa bella è che quando leggi i Vangeli è proprio Gesù stesso a dire chi Lui è. E si presenta in più di un'occasione, no? Avete notato che Gesù proprio, dalla sua bocca, escono queste parole: io sono, ad esempio, la via, la verità e la vita, lo sappiamo. Oppure io sono la resurrezione e la vita. Io sono il pane. Io sono la luce. È Gesù stesso che dice, dà tutte queste immagini e si presenta a noi per assicurarci che abbiamo una chiara idea. Ognuna di queste immagini, ognuna di queste presentazioni di Dio ha qualcosa da rivelarci. E io questa sera vorrei soffermarvi con voi su una delle affermazioni che Gesù fa di se stesso, identificandosi quale buon pastore. Perché quando Gesù dice io sono il buon pastore, a me fa venire i brividi, non lo so a voi. È profonda, non è una cosa, non è una favoletta per bambini. E io vorrei che insieme noi considerassimo quale peso ha questa affermazione nelle nostre vite. Gesù dice: io sono il buon pastore. Lo vogliamo leggere insieme? Lo leggiamo in Giovanni capitolo 10, dal versetto 10, dove c'è scritto, ed è Gesù che sta parlando, E dice: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Ascoltate, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore. È bello vedere, quando Gesù ripete determinate cose, è proprio perché vuole che entrino nel cuore e nella mente di coloro che lo ascoltano, noi in questo caso, questa sera. Io sono il buon pastore, dice Gesù, e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Gesù dice non solo che Lui è il pastore, ma è bellissimo perché Lui dice io sono il buon pastore. Gesù è buono. Io lo so che l'abbiamo sentito così tante volte. Io lo so che è un'affermazione che la diciamo nelle nostre preghiere, nelle nostre canzoni. Io lo so che noi, anche quando ci salutiamo, diciamo che Dio è buono. Ma un conto è dirlo, un conto è pregarlo, un conto è cantarlo, un altro conto è saperlo profondamente, anche quando le circostanze nella nostra vita cominciano ad urlarci contro, che Dio è lontano, Lui non è buono, Lui non ci vede, Lui non ci ascolta. Dio, fratelli e sorelle, è buono. È sempre buono. Nei salmi, che erano dei canti, no? Ci sono decine di volte è ripetuta questa frase: il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. E noi come il popolo di Israele dobbiamo appropriarci di questo canto, di questa affermazione, di questa preghiera e dobbiamo ripetere a noi stessi ogni giorno: il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. Le cose vanno bene, il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. Le cose vanno male, il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. Perché le cose negative non dipendono e non vengono da Lui, ma sono le cose buone che vengono da Lui. E Giacomo 1, noi lo leggiamo in Giacomo 1, versetto 17, che ci dice queste parole: ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. È tempo, fratelli e sorelle, che noi mettiamo un bavaglio alla voce delle circostanze, alla voce del nemico che ci urla contro. Vedi, il tuo Dio non è buono, non è sempre buono, è una bugia, e nel momento in cui tu accetti quella bugia per verità, nella tua vita la fede si demolisce. Dio è buono, Lui è sempre buono e Lui è un buon pastore. Amen. Gesù dice: io sono il pastore, io non sono il mercenario. Sapete qual è la differenza? Il mercenario era un operaio. Era un operaio che veniva pagato alla giornata per custodire le pecore, ma lo faceva per un guadagno personale. E come leggiamo, come Gesù ci dice, nel momento in cui vedeva una minaccia, nel momento in cui veniva il lupo, era il primo ad andarsene via. Perché? Perché le pecore non gli appartenevano. Al mercenario le pecore non appartengono, è il pastore che ha proprietà sulle pecore. E Gesù dice: io sono pastore, io sono il buon pastore, io non sono mercenario delle vostre vite. Io non vi tratto per avere un vile guadagno personale. Voi mi appartenete, voi siete mie, voi siete miei, tu sei mio, tu sei mia. Gesù dice questo di te e di me, e questo è meraviglioso. Tu appartieni a un buon pastore. Ora, che cosa fa il pastore? Ci sono tre cose di cui vorrei parlare questa sera. Tre azioni che il pastore svolge nei confronti del gregge, nei confronti delle pecore. È importante però che nel vedere questi tre aspetti noi ci immedesimiamo e abbiamo rivelazione di questa verità, cioè che tu e io siamo delle pecore. Ok? Non deriviamo dalla scimmia, ma siamo delle pecore. È incoraggiante, no? Questa sera hai avuto un incoraggiamento e qualcosa che un po' ti turba forse, no? Quindi le pecore che cosa fanno, no? Sapevo che puntualmente qualcuno fa il verso, non lo so perché, però effettivamente le pecore non fanno un granché, sono piuttosto stupide. E quando Gesù dice voi siete pecore, ci sta dicendo non sta dicendo voi siete stupidi, ma in altri termini sta dicendo voi avete bisogno di un pastore sulla vostra vita, perché siete indifese, siete vulnerabili e siete senza futuro, senza protezione, senza la capacità di difendervi da voi. Avete bisogno di essere guidati, protetti, curati da un pastore. E le pecore fanno, oltre che fare il verso, le pecore vivono in gregge. E questo è qualcosa che noi non possiamo mai sottovalutare, fratelli e sorelle. Se tu leggi a sufficienza la parola di Dio, ti rendi conto che gran parte del Nuovo Testamento è indirizzato a delle chiese, che gran parte del Nuovo Testamento parla alla chiesa, che gran parte del Nuovo Testamento parla di chiesa e definisce che cos'è la chiesa. Se noi rinunciamo al valore della Chiesa nelle nostre vite, siamo come pecore che vogliono autonomamente vivere il proprio percorso a distanza dal gregge, facendosi guidare dal pastore. Il pastore non conduce delle pecore singolarmente, conduce il gregge. Se noi vogliamo essere guidati da Cristo Gesù, dobbiamo essere parte del suo gregge, che è la sua famiglia, che è la sua Chiesa. È importante che noi comprendiamo questo, perché a volte rimaniamo delusi di un'altra pecora. E forse rimaniamo delusi perché abbiamo scambiato un'altra pecora a quale pastore della nostra vita. E nel momento in cui una pecora ci delude, noi abbandoniamo il gregge e il pastore, perché non puoi abbandonare il gregge senza abbandonare il pastore. È una falsità credere che non venire più in chiesa sia qualcosa che non ti preclude la possibilità di sperimentare ancora un sano rapporto con Cristo Gesù. Se vuoi un sano rapporto con Cristo Gesù, hai bisogno di essere in chiesa, hai bisogno di far parte di una chiesa, perché Gesù conduce il suo gregge. Noi siamo pecore, noi abbiamo bisogno di un pastore, noi viviamo in gregge. Oh, quanto è faticoso vivere in gregge, è vero? Quanto non tutti hanno la lana addosso, è vero? Non è così morbido quando ci scontriamo. A volte alcuni hanno proprio una pelliccia di quelle appuntita, cioè c'hanno la giacca chiodata, no? con i chiodi. E quando ti giri e ti muovi e servi e ti incontri, puntualmente c'è qualcuno che ti pizzica al fianco, qualcuno che ti fa un torto, e tutto questo può essere una minaccia nella tua vita nel momento in cui ha una voce più grande e urla più forte di quello che invece la parola di Dio ti invita a vivere e a fare. La parola di Dio ti invita ad essere parte della Chiesa, a unirti con fratelli e a trovare la guida del pastore nella comunità. Abbiamo esagerato nel parlare, forse come credenti, del rapporto personale con Cristo. Abbiamo sempre così tanto esasperato questo concetto che abbiamo il nostro personale salvatore, che Gesù è il nostro individuale confidente, che Lui è la guida individuale per ciascuno di noi, che noi lo incontriamo nella cameretta, e sono tutte verità. Ma possono essere una grande minaccia nel momento in cui non le vagliamo con la verità che la parola di Dio ci dice, ci presenta. E la parola di Dio dice che Gesù non è morto per te, è morto per la Chiesa. Che Gesù non vuole solo un rapporto personale con te, individuale, nella stanzetta, ma vuole un rapporto con la sua Chiesa, che chiama sposa. E la sposa non sei tu, singolarmente. Sei tu insieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle imperfette, e insieme godiamo della guida di Cristo nel momento in cui non permettiamo ad una pecora, ad una occasione, di minare e minacciare il percorso che abbiamo da percorrere insieme. Lui è un pastore, ed è un pastore buono, e quello che lui fa è curare il suo gregge. Vi ricordate quello che c'è scritto nel Salmo 23? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Gesù è un buon pastore che cura le pecore. Se vuoi cura per la tua vita, hai bisogno di Cristo Gesù. Lui non solo cura, ma Lui guida le pecore. Il pastore ha questo ruolo di dare una direzione alle sue pecore. E questo è qualcosa di importante per noi, perché a volte nella nostra vita noi rimaniamo disorientati. E proprio nelle stagioni più difficili, quello che succede è che le situazioni cominciano ad urlare e ci fanno sentire spaesati, disorientati. E in questo disorientamento, al posto di ricordarci che abbiamo un buon pastore che guida le sue pecore, ci perdiamo nei meandri dei pensieri, delle preoccupazioni e delle possibili soluzioni carnali, personali, che derivano dalla nostra sapienza. Se oggi ti ritrovi in una stagione della tua vita dove sei disorientato, dove non sai dove andare, io ho una buona notizia per te. Tu hai un buon pastore che ama guidare le sue pecore. E infatti è proprio quello che abbiamo letto in Giovanni 10. Anzi, scusate, no, è nello stesso capitolo, ma qualche verso prima. Ve lo voglio leggere. Giovanni 10, dal versetto 3, c'è scritto questo. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro. Questa è la descrizione del buon pastore. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Voglio leggervi di nuovo queste parole. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Gesù è il buon pastore, lui guida le sue pecore e per guidarle si mette davanti. È bellissima questa immagine, lui va davanti a loro. Io nell'affrontare tante circostanze di vita, di tante persone all'interno della Chiesa, anche fuori, nell'esperienza che ho, anche mia personale di vita, mi sono reso conto che ci sono vari livelli di fede che si possono avere anche proprio nel vivere Cristo nella propria vita. E i livelli di fede possono essere, catalogati proprio dalla posizione nella quale il credente mette Gesù. C'è chi mette Gesù al proprio fianco. Sapete chi sono questi credenti? Sono quelle persone che vogliono Gesù quale amico, quale confidente, però hanno già delle idee. Hanno già delle cose che vogliono fare e a volte le fanno e poi cercano di portarsi a braccetto Gesù. Quindi non è che vogliono escludere completamente la guida di Gesù, ma non lo vogliono totalmente avanti per arrendersi completamente alla sua volontà e fare esattamente quello che lui dice. Un po' lui e un po' io. Questa è la vita di alcuni credenti, no? Un po' quello che lui dice nella sua parola, un po' quello che piace anche a me. E quindi questa vita inevitabilmente è altalenante. A tratti, quando Gesù ha la possibilità, gli concediamo la possibilità di dirci dove andare, cosa fare, questo produce benedizione nella vita di quel credente. Ma nel momento in cui quel credente vuole fare di testa sua e portarsi appresso Gesù, e Gesù è buono, lui è sempre con noi, non è che ci lascia, non ci abbandona, non ci giudica, lui viene a cercare la pecora che è smarrita, lo sapete, no? Però questo non porta benedizione nella nostra vita, perché facciamo di testa nostra, e nel fare di testa nostra non godiamo di tutte le benedizioni che derivano invece dalla sua completa guida. Poi ci sono altri credenti che proprio scelgono di avere Gesù alle spalle, è vero? Sono quei credenti che vanno avanti per la loro strada, sono convinti, fanno i loro errori, però quando sono disperati e cadono, in quel momento vogliono il soccorso di Gesù e dicono: Gesù, tu che stai dietro a tutto e a tutti, per piacere intervieni, perché ora sono disperato. Gesù è misericordioso, lui è buono, lui prende quelle pecore, le rialza, le riporta nella giusta strada, però sta a quella pecora, sta a me e a te decidere da quel momento in poi di mettere Gesù avanti. Gesù merita di essere avanti. E Gesù è avanti quando prima di ogni scelta, prima di ogni azione, prima di ogni cosa che tu vivi nella tua vita, ti domandi: lui cosa vuole che io faccia? Cosa vorrebbe Gesù che io faccia in questa situazione? Cosa vorrebbe Gesù che io faccia in questa relazione? Cosa vorrebbe Gesù che io faccia di questo sentimento? Che cosa vorrebbe Gesù che io faccia di questo bollore nello stomaco che ho per quella persona, per quella circostanza, per quel collega di lavoro, eccetera, eccetera? Le persone che mettono Gesù davanti sono quelle persone che si sono arrese e hanno scelto di essere dei veri discepoli suoi. Gesù dice: se uno vuol venire dietro di me, non dice se uno vuol venire con me, se uno mi vuole a fianco nella sua vita, se vogliamo passeggiare insieme, no, lui dice se qualcuno vuole venire dietro di me, cioè che io guido, che io segno la strada, che io segno il percorso, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù è il buon pastore che cura, che guida e che protegge. Queste sono le tre cose di cui volevo parlare questa sera. Lui è il buon pastore che ti cura. Lui ti porta ai verdeggianti pascoli. Lui ti guida stando davanti a te. E lui ti protegge. Questo è un ruolo fondamentale. E c'è tanta consolazione in questa verità. Lui ci protegge. Sapete, io sono convinto di questa cosa per la mia vita. Dovunque andrò e in qualsiasi circostanza mi ritroverò, qualsiasi sia la tempesta che si abbatterà contro la mia vita, contro il mio corpo, io so che Lui mi protegge. Io so che Lui mi proteggerà. e spero tanto che questa sia una verità che vivi anche tu. Sapete, Gesù parla di lupi in questa storia, e il lupo non ha paura della pecora. Il lupo non ha paura di pecore che si fanno forti e fanno la voce grossa e cercano di abbaiare o ululare come altri lupi. Il lupo è violento, il lupo è senza pietà, e il lupo conosce bene le sue prede, e noi siamo prede del lupo. Tu non puoi proteggerti da solo. Tu non puoi nulla contro il nemico che si scaglia contro di te, contro la tua famiglia, contro il tuo fisico, nelle tue circostanze. Tu da te stesso non hai la forza di autoproteggerti. Il lupo ha paura del pastore. Questa è la cosa meravigliosa. Il lupo non ha paura della pecora, ma ha sicuramente terrore del pastore. E noi siamo protetti non in virtù del fatto che tutto a un tratto abbiamo avuto conoscenza di Dio, tutto a un tratto siamo diventati delle persone migliori, tutto a un tratto sappiamo pregare, sappiamo lodare, sappiamo venire in chiesa. Non c'è protezione nel nostro autodifenderci, c'è protezione nel buon pastore che ci guida. È Lui che ti protegge. E io spero che questa parola, se magari non è specifica per questo momento nella tua vita, lo sia nel momento opportuno, quando il lupo verrà. Perché quando il lupo verrà puoi farti forte da solo, ma crollerai. E il tuo cercare di rimanere in piedi non ti farà stare in piedi. Ti farà zoppicare, è il lupo che è vorace, lui ti azzannerà e ti ferirà. E sarai una pecora ferita e sarai una pecora che avrà fatica ad andare avanti. Ma io spero che in quei momenti, in quelle stagioni, tu possa ricordarti che hai un buon pastore ed è Lui che ti protegge. È nel nome di Gesù che noi abbiamo protezione. È nel nome di Gesù che noi possiamo alzarci in piedi e dire al lupo vai via, ma non nella nostra autorità, nell'autorità del nome di Gesù, perché Lui è il pastore in autorità contro il lupo e caccia via il lupo. Lui ha il bastone. Lui ha la verga, Lui interviene e Lui è potente. Nulla può il lupo contro il pastore. E oggi io spero che tu possa far tue queste parole. Hai un buon pastore che ti cura, ti guida e ti protegge. Dipendi da Lui, torna da Lui. Rimettiti nelle sue mani, nelle sue cure. Lasciati guidare da Lui. Abbiamo questo bellissimo momento che è proprio la cena del Signore, che è un'occasione per ricordarci di quello che Lui ha fatto per noi e come ha dimostrato le parole che abbiamo letto, e cioè che Lui dà la vita per le sue pecore. Lui lo ha dimostrato, l'ha data veramente. Lui si è lasciato crocifiggere su una croce 2000 anni fa perché ci ama. E stasera abbiamo l'occasione di ricordarci tutto questo e rimetterci nelle sue mani e ridare a Lui la posizione che gli spetta e prendere e far nostra la conoscenza che produce fede in noi e non ci fa vacillare. Vogliamo alzarci in piedi? Voglio chiederti di alzare le tue mani, chiudere i tuoi occhi. Vogliamo pregare insieme. Vogliamo chiedere l'intervento suo nelle nostre vite, che quello che Lui ha voluto rivelare questa sera possa entrare non solo nella nostra mente, ma possa entrare nel nostro cuore e possa motivarci ad andare avanti nella maniera giusta. Gesù, siamo qui con le nostre mani alzate in arresa davanti a te. Siamo tante pecore, siamo un unico gregge, siamo il tuo gregge. E vogliamo, desideriamo in unità essere guidati da te che sei il buon pastore. In questo momento, Padre, contro ogni bugia, contro ogni circostanza e situazione che sta urlando nelle nostre vite, noi vogliamo riconoscere che tu sei sempre buono. tu sei sempre buono con noi, tu sei il buon pastore, e in questo momento noi vogliamo riconoscere che senza di te non abbiamo la cura, non abbiamo la protezione, non abbiamo la guida, e vogliamo te. Io voglio pregare, Padre, per chiunque in questo luogo con le sue mani alzate ha bisogno di riconoscere la via, riconoscere dove deve andare, dove deve muovere i suoi prossimi passi. Forse ci sono persone che hanno delle decisioni davanti, delle scelte da fare. Io prego, Padre, che nessuno di noi possa metterti al suo fianco, nessuno di noi possa metterti dietro di noi, alle nostre spalle. Noi vogliamo te davanti e ti preghiamo di mostrarci la via. Per cosa vuoi tu che noi viviamo? Quali scelte vuoi tu che noi facciamo? Quale rinunce, quale posizioni, come affrontare sentimenti, come affrontare conflitti, Padre. Noi vogliamo te davanti e chiediamo che la tua guida possa essere chiara per ciascuno di noi. E sento di pregarti questa sera, Padre, per chi sta attraversando delle circostanze difficili, che stanno urlando e stanno parlando più fortemente di quanto la tua parola dovrebbe parlare. Io prego che la tua parola nei cuori dei miei fratelli, delle mie sorelle, possa cominciare ad urlare in una maniera più forte, in una maniera più dirompente, contro ognuna di queste circostanze, contro la malattia che ci vuole far credere che siamo dei perdenti, contro ogni situazione difficile al lavoro, nelle relazioni, nel matrimonio, nella famiglia. Io nel nome di Gesù prendo autorità contro ognuna di queste cose e ti chiedo che tu possa dare ai miei fratelli e alle mie sorelle chiarezza, guida, protezione, cura nel nome di Gesù. Grazie, Padre, perché ti abbiamo, e questa sera noi vogliamo celebrare quello che tu hai fatto per noi. Siamo immensamente grati per il tuo sangue versato, per il tuo corpo sacrificato. Grazie perché in virtù di quello che tu hai fatto per noi, che noi oggi possiamo essere guidati, curati e protetti. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore. Amen.